sì. Venerdì 16 febbraio, giorno dopo i Lupercalia, appunto, il signore in prima fila, anzi in fila prima di me al banco della panetteria, informa la venditrice che l'indomani non avrà bisogno della solita fornitura di micchette. Questo weekend in montagna c'è un metro di neve e lui va a sciare. La distributrice di pagnotte se ne compiace e gli augura buon divertimento. Peccato però, osserva, e così domenica si perde il carnevale. E al cliente che osserva che no, questa domenica, oggi per me che parlo e per voi che ascoltate, che questa domenica qui a Milano è ancora quaresima, spiega che non si riferisce al carnevale ambrosiano, ma a quello cinese. Sono previste in via Paolo Sarpi luminarie, cortei, attrazioni e quant'altro. Figuriamoci, sbotta il tipo con uno scatto inatteso. Lui dei cinesi non ne può più. E gli basta e avanza a starci assieme i giorni feriali. E sono i padroni del quartiere, hanno occupato tutti i negozi, ostruiscono i marciapiedi con i loro maledetti furgoni, in giro non si vedono altri che loro. Se lo tengano pure il loro carnevale, e lui se ne va in montagna. La panettiera sembra un po' stupita, ma si affretta ad acconsentire, ovviamente desiderosa di non scontentare un cliente abituale, tanto più che il parere di costui è condiviso dalla maggior parte dei cittadini e delle cittadine presenti. Abitano tutti, come me, qui in zona, al margine di quella che in mancanza di un termine italiano corrente si può definire la Chinatown locale, e la presenza dei figli del sollevante a quanto pare gli dà abbastanza fastidio. E visto che le autorità non si decidono a intervenire, stasera c'è un'assemblea in via Messina e la Moratti ha promesso di esserci, ma volete scommettere che non si farà vedere? In effetti non si è fatta vedere, per cui l'atteggiamento generale è quello di chi si sente abbandonato in balia alle altrui vessazioni. Io ascolto, reprimendo la tentazione di intervenire, che dato i rapporti di forza non servirebbe a niente, e rifletto che questi miei concittadini sono veramente un po' strani. Si lamentano perché i commercianti cinesi parcheggiano sui marciapiedi o in doppia fila, come se nelle zone di Milano a popolazione esclusivamente d'origini lombarde non succedesse nulla del genere, e non si rendono conto neanche lontanamente che se il nostro quartiere ha conservato un minimo di vitalità, se non si è lasciato assorbire da quella specie di futile deserto metropolitano che caratterizza buona parte della città, e lo deve in gran parte agli immigrati orientali, al loro dinamismo, alla loro presenza, alla loro energia imprenditoriale. Sono valori, oltretutto, questi, che i milanesi non dovrebbero essere estranei, almeno a giudicare dalle invettive che abitualmente lanciano contro chi non li condivide, ma non evidentemente quando i loro portatori hanno gli occhi a mandorla. L'operosità dei cinesi in realtà desta altrettanto fastidio dell'asserita estraneità aritica del lavoro dei nomadi, o del supposto edonismo dei latinoamericani, o della pretesa aggressività ideologica degli islamici. E con il risultato che la grande città ospitale di un tempo si è ormai ridotta a una specie di paesotto sotto assedio che confonde la difesa dell'identità con la paura dell'altro. Eppure i cinesi non sono esattamente una presenza recente tra noi. Stanno in via canonica dall'inizio degli anni 30 del secolo scorso e la loro presenza dovrebbe essere ormai pacificamente accettata da tutti. Dovrebbe, ma non lo è, perché evidentemente quella loro energia suscita parecchia inquietudine. Diciamo che un po' fa paura. E poi oggi non è carnevale, né a Pechino né in via Paolo Sarpi. Questa domenica si festeggia il Capodanno lunare, il primo giorno dell'anno del maiale, anzi dell'anno d'oro del maiale, secondo una combinazione astrologica che si presenta soltanto ogni 720 mesi e che la tradizione confuciana considera particolarmente di buon auspicio. Non occorre essere esperti di orientalistica per saperlo, c'è scritto su tutti i giornali in questi giorni. Ma evidentemente la cosa non interessa a nessuno, come se della buona fortuna cinese il vero ambrosiano doc non avesse assolutamente necessità. Perché a Milano non siamo razzisti, naturalmente, e abbiamo bisogno del lavoro degli immigrati, figuriamoci. Ma dividere su un piede di parità le vie e i quartieri con loro non siamo proprio disposti. E nulla ci interessa meno dei loro costumi e delle loro ricorrenze. Pazienza e buon anno del maiale a tutti.